Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla stessa ora. Buona giornata. Ci sono dei problemi, probabilmente qualcuno l'avrà notato, ci sono dei problemi sulla messa in linea dei testi sul sito di Radio Popolare. Credo che siano questioni che problemi di server che noi non siamo in grado di maneggiare. E qualche problema c'è anche per la risposta diretta via email alle vostre email, non sempre funziona, anche qua speriamo di risolverlo. Nel frattempo ricordatevi la replica che è sempre nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo l'ultima edizione delle notizie. Ci sentiamo.